ci si trova davanti a Cancelli ora, immediatamente, immediatamente, qualsiasi cosa state facendo. Ho visto questo messaggio, pensavo fosse uno scherzo e a dire il vero l'ho cancellato inizialmente. Superato lo shock, gli operai reagiscono tirando uno scherzo, altrettanto inatteso, a chi pensava di dismetterli come scarti. Tutti insieme, stretti, entrammo in fabbrica.